Europa 24. E l'avete sentito poco fa anche in effetto giorno, il 7 ottobre la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese François Hollande interverranno insieme alla sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo dopo aver accettato l'invito del presidente Schulz, il quale ha commentato che si tratta di una visita storica in tempi storicamente difficili. L'Unione europea si trova ad affrontare sfide enormi, dice Schulz, e richiede un forte impegno da parte dei suoi leader. È un segnale importante che tale impegno sarà assunto di fronte a rappresentanti democraticamente eletti in Europa. Ed ora torniamo sulle elezioni greche. Congratulazioni a Tsipras, sono arrivate anche dalla Commissione europea. Allora torniamo a collegarci in diretta con Atene e con Valeria De Rosa. Sì, Piera, le congratulazioni da parte di quasi tutti i leader europei e, come dicevate, da parte della Commissione, che si è augurata che si svolga molto rapidamente, quindi l'applicazione del memorandum, tutti i passi necessari che la Grecia deve fare per ottenere a sua volta il prestito da parte delle istituzioni finanziarie, un concetto che è stato ribadito anche poco dopo dalle congratulazioni del presidente Tusk, che anche in questo caso appunto si è augurato che il governo di Atene, il nuovo governo di Atene, sia un governo molto attivo in questo senso. Il nuovo governo, che in realtà nuovo non è perché sarà più o meno nella stessa composizione di quello venuto fuori dalle urne a gennaio, quindi Tsipras, Syriza, più Anel, e più o meno i ministeri dovrebbero essere gli stessi. Dal punto di vista strettamente europeo, a questo punto è più che probabile che Tsipras possa insistere sul taglio del debito o quantomeno su un riscadenzamento del debito stesso. Qui fonti locali dicono che tutto sommato anche in Germania e alla stessa Commissione europea le congratulazioni siano state sincere, perché forse solo questo governo è in grado di applicare il memorandum che è stato firmato a luglio. E per il momento è tutto. Grazie a Valeria De Rosa. Il portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas, nell'incontro con la stampa di questa mattina, si è detto ottimista in un accordo entro domani sul fronte pro. Non agiamo nei confronti di singoli casi o singoli paesi perché siamo in un'unione, ci stiamo muovendo ma non abbiamo la bacchetta magica. Lo stesso presidente Juncker è coinvolto in prima persona, ma siamo ottimisti di ottenere domani un risultato. Queste le parole di Schinas. Fra le ipotesi sul tavolo anche quella di multare gli stati per ogni profugo rifiutato. Oggi si incontrano a Praga i capi della diplomazia del gruppo di Visegrad, che conta Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria, ovvero gli stati che si oppongono a un'equa spartizione dei migranti sul suolo europeo. Entro domani, invece, i 28 dovranno trovare necessariamente un accordo che accontenti tutti. A Bruxelles si riuniranno infatti i ministri degli interni. Mercoledì sarà la volta dei leader, che dovranno infine decidere sulle quote dei migranti che ciascun paese dovrà ospitare. Dato che il tempo per le trattative con gli stati dell'est, contrari alla spartizione dei migranti, è esaurito, sul tavolo ora spunta l'ipotesi di multare le capitali inadempienti, 6.500 euro per ogni profugo rifiutato. I richiedenti asilo finiranno negli altri stati, che avranno come risarcimento i soldi della sanzione. Intanto, gli Stati Uniti annunciano l'apertura del loro territorio a ben 100.000 migranti entro il 2017. Carlo Terzano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per Europa 24, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.